falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Ciao Enrico, mi piacerebbe che raccontassi la storia di Pietro Taricone. Credo che molti lo ricordino, è partito dalla prima edizione del Grande Fratello. È riuscito a diventare un attore, mi pare, come dite voi, sia stato molto bravo nel dare il suo colpo d'ala. E anche se poi è caduto, credo che possa essere un buon esempio per molti. Mi chiamo Eleonora e ti scrivo da Vigevano. Sono molto contento perché Eleonora ha avuto un'ottima idea e quindi noi la raccontiamo volentieri, la storia di Pietro Taricone, una persona che io ho visto poche volte nella mia vita, lo conosco poco, però l'ho sempre giudicato un personaggio molto interessante, e anche perché è partito con la TV, però poi ha studiato, ha avuto una bella moglie, una carriera molto particolare, ne parleremo. Partiamo però dall'inizio, e l'inizio è questo. Conosciamo tutti, questa è la sigla del Grande Fratello, è sicuramente una delle trasmissioni più controverse del nostro tempo, un programma che parte nel 2000 e la prima edizione è sicuramente quella più interessante per la novità che porta con sé, ma anche perché è l'edizione più vera, perché i concorrenti vivono dentro alla casa senza veramente sapere quello che sta succedendo fuori, perché dalla seconda edizione in avanti in qualche modo il comportamento dei concorrenti è stato pilotato da loro stessi a favore di cose che già sapevano. Quella era un'edizione assolutamente pulita, senza sovrastrutture. Pochi sanno che il format Il Grande Fratello nasce da un esperimento scientifico di grande valore che si chiama Biosfera 2. La Biosfera 2 era una cupola sigillata costruita tra l'87 e il 91 e che conteneva un ecosistema completo, autosufficiente. L'ente fondatore del progetto, la Space Biosphere Ventures, realizza una struttura in Arizona. È un'area di 12.000 metri quadrati con una barriera corallina, una foresta di mangrovie, una savana, un deserto. Quindi in pratica i promotori del progetto vogliono sapere quello che succede isolando 4 uomini e 4 donne, tutti scienziati, che vengono obbligati a convivere, e quindi si verificano alleanze strategiche, innamoramenti, liti, anzi alla fine alcuni pannelli vengono distrutti, viene violata l'integrità della cupola e l'esperimento fallisce, viene sospeso. Però John de Mol e Job van der Ende, che sono produttori televisivi olandesi che hanno fondato la Endemol, vengono a conoscenza dell'esistenza di quella Biosfera 2 e hanno l'idea per il programma, che diventa il primo reality della storia, che loro chiamano Grande Fratello, dal libro di George Orwell 1984. Pietro Taricone arriva da Caserta, è nato a Frosinone il 4 febbraio del 75, la sua famiglia è originaria della provincia dell'Aquila, figlio di una maestra elementare, il padre è direttore del personale di un'azienda, insomma la buona media borghesia. Lui si iscrive a giurisprudenza dopo aver preso il diploma al liceo scientifico, però non ha molta voglia di studiare, inizia a fare l'amministratore di condominio, ma soprattutto l'istruttore in palestra. testa. E infatti questo forma un bel ragazzo muscoloso, pieno di energia, che ama gli sport, la vita all'aria aperta e sicuramente anche il mondo dello spettacolo. E quindi quando viene a sapere che si stanno tenendo i casting per un nuovo programma televisivo, si presenta. Ha fatto tante domande, ma per ora non lo hanno preso, e quindi, come spesso accade, una sfortuna diventa una fortuna, perché è libero per il Grande Fratello e fa un provino. Mi laureo con ritardo perché faccio tante cose, faccio il magistrato tatuato. Voi pensate a un criminale che viene là, si aspetta il laureato in giurisprudenza figlio di papà, che non ha mai fatto niente. Poi me lo chiudo nella stanza, me levo la maglia, dicevo, i muscoli, i tatuaggi, mi sono candidato in politica. È stata proprio veramente una campagna elettorale, guarda, ho fatto delle cose all'americana, ho fatto la festa nel locale con le mie foto, sempre in giacca, cravatta, è stata carina. Le persone che poco mi conoscono, quindi penso che mi reputino invadente, egoista, spaccone, inconcludente, mette le cose in troppe, sono cose a cui non puoi dar peso, ne dai peso quando sei adolescente, infatti sta sempre a fa botte. La cosa più normale che si parla fuori al bar è Maro, che schifo Casetta, me ne voglio andare, io devo andare qua, però non sono nessuno a Caserta. Infatti la domanda perché va il Grande Fratello, vi rispondo, siete mai stati 25 anni a Caserta? Venite a 25 anni a Caserta e poi ve le fate tutte. Se dovessi entrare in questa la prima settimana, è inutile dirvi che è normale, uno sente le telecamere addosso, che fa? Si contiene, recita. Dopo no, specialmente se è vero che avete fatto perdere la cognizione del tempo. Per cui potrei litigare, se mi piace una ragazza, perché quando sei sicuro attacchi. Se ci sta è fatta, tanto avete il coraggio di mandare su canale 5 io nudo che mi sto a fare, scusate, io gioco sul vostro senso del pudore. Beh, come vedete, dice delle cose molto acute, dette prima ancora della partenza del Grande Fratello. Colpisce molto gli autori del programma, anche perché ha una carica umana fortissima. Fa lo spaccone, ma si capisce che dietro certi suoi atteggiamenti c'è una personalità da scoprire, che è tutt'altro che stupido. Quindi partono i provini degli aspiranti partecipanti e c'è gente che arriva da tutta Italia, con tutte le tipologie caratteriali possibili e immaginabili. Tanto che la Gialappa, parafrasando il loro famoso mai dire gol, inventa un form divertentissimo che farà storia, mai dire Grande Fratello, che riunisce i provini più divertenti a quelli più demenziali. Senti, il tuo difetto, eh? Il mio difetto? Ma nessuno. Vabbè, certo. Una ventina li vedo io. Il tallone d'Achille? Il tallone d'Achille? Tranquillo. È a posto. Cosa è a posto? Lo hanno già operato. L'ortopedico. Il tallone d'Achille, eh? Dai, lo sa. Dai, ma uno in Italia che sa cosa vuol dire. Come frase, vivi e lascia vivere. Ma come frase? Il tallone d'Achille. Cosa? Pronto? Chi è? C'è Berlusconi che è Presidente della Repubblica. No! Poi c'è il Presidente del Consiglio che cavolo lo c'ha. No, no! Sei dietro di qualche legislatura, Ora è Ciccio Benzina. Della Repubblica Italiana. Dai. C'è Pier Silvio Berlusconi. Pier Silvio! Berlusconi! Ma come? Ma quale? Ma Silvio o Pier Silvio? No, Pier Silvio. Pier Silvio, certo. Giusto. Tre cose porteresti un'isola deserta? Isola deserta. Cosa porteresti? Tanto le sigarette. Vabbè, quelle non le trovi, in effetti. Poi porterei i profilattici. Ma che te ne fai? In un'isola deserta? In un'isola deserta? Un'altra cosa. Che cosa? I soldi. Come i soldi? Sì, bravo! Del Gabbiano. La storia di oggi ci è stata richiesta da un nostro ascoltatore, Eleonora. La storia è quella di Pietro Taricone, che nel 2000 si trova al posto giusto, al momento giusto, e anche e soprattutto grazie alla sua umanità e alla sua simpatia riesce a entrare come concorrente nella casa che diventerà la più famosa d'Italia, quella del Grande Fratello. Lui ha 25 anni, arriva da Caserta, una cittadina che non offre un granché a un ragazzo come lui, che aspira a qualcosa di più, cerca stimoli nuovi e una sua strada e si trova lì in una trasmissione che fa, come si suol dire, il botto, perché parte con un ascolto altissimo fin dalla prima puntata, che è di oltre 5 milioni. Alla fine delle trasmissioni l'ultima puntata viene vista da più di 16 milioni di persone. La novità di poter spiare la vita dei concorrenti dal buco della serratura diventa un fenomeno mediatico. Da quel momento i reality si sprecheranno in Italia e in qualche modo tutti cercheranno di imitare la formula che allora fu deflagrante del Grande Fratello, cioè dei ragazzi costantemente sotto le telecamere che stanno sempre a contatto tra di loro e che in qualche modo accumulano amori e tensioni in quel posto. Devono sempre frequentarsi, non possono fare nulla tranne che ogni tanto andare nel famoso confessionale. È l'unico luogo della casa in cui possono parlare, diciamo, al mondo senza essere ascoltati dagli altri. Quindi non c'entra, vince, perde, capito? È una cazzata, i soldi, non i soldi. Qua è bello starci, è proprio metterti alla prova, alzarti e dire un altro giorno, vai, vai, vai, conquista un gradino in più. Conquista, vai, fai. Non è duro, capito? È complesso, è diverso. Non è duro, è complesso, e Pietro si rivela subito complesso e diverso da quello che può apparire esteriormente. Fa un po' lo spaccone, ma non lo è veramente. Ha un fisico da palestrato, da macio sciupa femmina, ha i tatuaggi, ma è anche un ragazzo pieno di sentimenti e non è stupido, è un grande appassionato per esempio di filosofia, non perde occasione per dare della filosofia una sua personalissima interpretazione. Oh, ma non è che dire, il fatto è che se lo diceva Epicuro che per trovare la felicità è bene scopare, è Epicuro, voglio se lo dico io non va bene. Il fatto è che bisogna tornare, lo dico sempre, a prima di Socrate. Per me, per le mie reminiscenze letterarie, che sono minime, è Socrate che ci ha rovinato quando ha cominciato a fare tutti questi sofismi. Però era paraculo Socrate, perché alla fine lui diceva, non ci credeva manco lui. Se tu vedi i filosofi prima di Socrate, invece ci stava l'acqua, il fuoco, il pie veloce Achille, quelle cose semplici, belle, capito? Poi sai, questi cazzi intellettuali hanno rovinato tutto. Bizzarra teoria che però piace, è Pietro che piace, perché piace alle donne fuori ma anche a quelle dentro alla casa. La bagnina di Iseo, Cristina Plevani, ne rimane subito affascinata. Dopo 4 giorni i due si baciano e il giorno dopo avviene quello che verrà ricordato come uno degli eventi fondamentali nella storia del reality: una tenda montata nel salotto tra il divano e una parete e i due ragazzi che si appartano, risultando nascosti alle telecamere, quindi uno stratagemma per evitare di essere osservati fino a quel punto. Quello che avverrà all'interno della tenda lo sanno solo i due diretti interessati, ma tutti giurano che la relazione non è certo stata platonica. Mi vergogno un po' a dirlo, che provo un'attrazione fisica per un ragazzo che c'è qua e la cosa mi preoccupa un attimino, perché sono sempre un po' imbarazzata, però la cosa allo stesso tempo mi fa piacere. Poi penso che fra qualche giorno ci nasca qualche storia, un paio di storie. Sono molto imbarazzata. Pensi che la cosa migliore sia andare a dormire? Penso che la cosa migliore sia... Adesso non so se riuscirei a baciarti. Sono un po' imbarazzata perché ieri sera c'è stato il bacio tra me e Pietro e sono un po' solo imbarazzata, come lo ero ieri sera del resto, però non mi sono pentita. Io ti parlo di Cristina perché, cioè, per me mi sento proprio che non la gestisci la cosa. Se stessi fuori, mo stavo al bar con gli amici, stavo a rompere palla un altro squallido, mo già mi piace un'altra. E forse si comincia a notare sto fatto, però non devo fare errore. L'errore è di ferire le persone. Beh, lui non vuole ferire e lei che si dichiara imbarazzata. Pensate se non lo fosse stata, insomma. E intanto però i caratteri all'interno della casa si vanno delineando, perché si creano alleanze, innamoramenti, simpatie, antipatie. E ricordatevi che poi bisogna votare, bisogna mandare in nomination qualcuno, quindi la situazione diventa sempre più delicata. Intanto Pietro Taricone mostra la sua doppia anima, perché da un lato fa lo spaccone, il guappo che mette in mostra i muscoli, muscoli che ha fatto innamorare una ragazza ma conta già di sostituirla con un'altra, dall'altro però si rivela anche una persona sensibile, una persona intelligente che sembra interpretare un ruolo forse anche per se stesso. Comunque, per tutto questo è sicuramente tra i concorrenti più amati dal pubblico e infatti non viene mai eliminato. Sommerso dalle critiche anche per lo scandalo dei due sotto la tenda, ma al top degli ascolti viene fatto oggetto di parodie, di imitazioni. Comunque il Grande Fratello con la sua prima edizione apre la strada a un genere televisivo che oggi ben conosciamo, quello dei reality show che cambiano il costume, la società, influenzano le vite e rappresentano ancora oggi un prodotto comunque di successo. I concorrenti della prima edizione rimangono nell'immaginario collettivo, c'è Marina La Rosa che è la gatta morta, c'è Cristina La Bagnina, c'è l'ottusangolo Sergio Volpini, c'è il pizzaiolo Salvo Veneziano, insomma ce ne sono di tutti i colori. Ma c'è Pietro Taricone o Guerriero, e la sera della finale, il 21 dicembre del 2000, rimangono i tre finalisti, Salvo, Cristina o Pietro. Uno dei tre sarà il vincitore del Grande Fratello, il primo di una lunga serie di edizioni. Adesso si corre per il terzo posto. E quindi io vi comunico che il concorrente che ha conquistato il terzo posto in questa storica edizione del Grande Fratello è Pietro! Tranquillo. Tranquillo Pietro. Ah, hai visto? Porca miseria, sei preso tutti i quotidiani. Le valigie, le valigie. Ti prendo quelle piccole. Salvo. Sì, sì, non sto capendo nulla io. Ecco, io non sto capendo nulla. Pietro, dai. Io vado, va. Ah, dai, è il tuo momento, Pietro. Ci vediamo fra 10 minuti lì. Prima entro, ma giusto, la metti sì, qua. Sì, te la metto qua. Stanno distruggendo tutto fuori, Pietro. Appena ti prendono, ti strappano le mutande. Questa è l'ultima cavolata. Ci vediamo in trasmissione. Forza che è una festa, forza che è una festa, forza che è una festa. Mamma mia, sta scoppiando il cuore. Ti serve qualcosa, Pie? Qualsiasi cosa, che ti serve? Sì, io non sto capendo un cazzo. Tranquillo, ora appena esci ti mangiano, ti baciano, ti sei preso 12.000 copertine di tutti i giornali del mondo, vuol dire che fuori quando esci qua ti fanno fare un bel film di quella luce rossa. E sei accontentato. D'accordo Pietro, se ti senti pronto vai. Cazzo, stai emozionato. Sei stato sempre in diretta. Tranquillo, è il tuo momento. Madonna Pietro. Mia. Ecco Marco, sta scendendo, il terzo classificato. Dai, non tocco questo, dai. Pietro Taricone non vince il Grande Fratello, forse ci rimane anche un po' male, trionfa la bagnina Cristina Plevani, la prima della casa che cedette al suo fascino. Pietro arriva terzo, ma in qualche modo il vero vincitore del Grande Fratello è lui, perché è quello che tocca più profondamente i cuori del pubblico con la sua dialettica semplice, primitiva ma profonda, con il suo modo di fare da simpatica canaglia che ha anche dei sani principi. Pietro Taricone esce dalla casa del Grande Fratello da vincente e un mondo intero si spalanca davanti a lui e tra poco scopriremo insieme il suo destino. Gonna change my tune when I'm back on Falco e il Gabbiano. Il protagonista della puntata di oggi è Pietro Taricone, ma l'altro protagonista è Eleonora, che ci ha chiesto di raccontarne la storia e noi vogliamo sapere perché. Ci sono stati tanti personaggi più o meno conosciuti al Grande Fratello e poi in tutti i reality che sono arrivati dopo, ma secondo me nessuno è stato come lui. Aveva una grande voglia di vivere, uno splendido sorriso, era intelligente e aveva le idee chiare. Io ero una ragazzina in quegli anni e mi ricordo di aver pensato che lui era uno che poteva farcela. Oggi spesso vedo i ragazzi che non ci provano nemmeno e si danno per sconfitti. Pietro Taricone conquista il pubblico durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. Non arriva primo, ma è un vincente e quando esce viene richiesto ovunque. E qui c'è la svolta, perché mentre tutti gli altri concorrenti corrono da una discoteca all'altra per intascare un po' di soldi, per capitalizzare immediatamente la loro esposizione, il loro successo, lui rifiuta di sovraesporsi e sparisce. Rilascia una piccola intervista alla TV locale Canale 21 per un programma che si chiama Giovani del Sud. Cosa significa essere un giovane del Sud, Pietro? Che difficoltà sì? Il giovane del Sud è forte, cioè è bello, no? Perché sviluppi proprio il sangue, noi siamo sanguigni, è una cosa buona. E quindi Taricone sparisce, inizia a studiare recitazione, vuole diventare un attore, ma vuole farlo in maniera seria. La sua unica apparizione in quel periodo è il 10 gennaio nel 2001 al Maurizio Costanzo Show, che gli dedica addirittura la sua rubrica Uno contro tutti. La puntata viene seguita da oltre 10 milioni di telespettatori, segno dell'incredibile interesse che il personaggio Taricone scatena nel grande pubblico. Batte gli ascolti della Piovra, che è una delle fiction più seguite dell'epoca. Ovviamente Costanza non avrebbe mai dedicato uno speciale a Taricone se non avesse immaginato quale interesse poteva scatenare. Ormai Pietro è un divo e arrivano orde di fan a Caserta che citofonano per cercarlo senza ottenere una risposta, ma tutta la cittadina si chiude dietro un muro di omertà. Il loro Pietro va difeso a tutti i costi. Così danno indicazioni sbagliate, sostengono che sia a Roma, a Milano, che abbia cambiato casa. Vogliono dimostrargli che vogliono proteggerlo con il loro affetto. Intanto Pietro fa delle rarissime apparizioni pubbliche, posa per un servizio fotografico piuttosto osé, però su Max, che gli dedica anche la copertina, e firma un contratto con la casa di produzione Titanus per girare alcune fiction. Inizia così quella carriera da attore che aveva sempre tanto sognato, e la sua prima interpretazione è in una fiction di grande successo, Distretto di Polizia 3. Nel 2003 partecipa con un piccolo ruolo al film Ricordati di me di Gabriele Muccino, poi è uno dei protagonisti del film sulla guerra in Kosovo Radio West del regista Alessandro Valori, che di Pietro Taricone dice proprio questo. Il ruolo che lui recita nel film è un ruolo sicuramente drammatico, però comunque è il personaggio forse un pochino più leggero, più sempre con la battuta pronta, divertente, che sdrammatizza sempre in ogni occasione. Quindi è stato scelto perché è stato il più bravo, cioè, lo diciamo subito, così leviamo ogni dubbio. Noi abbiamo fatto tantissimi provini, io volevo un cast particolare, cioè di un certo tipo, abbiamo visto tanta gente e lui per quel personaggio è stato il migliore, il più bravo, quello che ci ha emozionato di più, ci ha fatto ridere, ci ha commosso, insomma. Poi anche umanamente è una persona molto sensibile e carina. E proprio sul set di Radio West Pietro conosce un'attrice polacca molto bella ma anche molto brava, si chiama Kasia Smutniak, destinata a diventare la sua compagna e dalla quale nel 2004 avrà anche una bambina, Sophie. I know it's written on a matchbook somewhere, so maybe I'll find it and maybe I'll care, or maybe I'll fix me with one of those stairs and put up a fight. So when you awake, I admit I'm relieved as you flash me a smile like a diamond, and just for a moment I almost believe in love at first light. confortato dal suo grande amore, Pietro Taricone prosegue la sua carriera. Nel 2006 è uno dei protagonisti della serie TV di Canale 5 ambientata nel mondo dei Vigili del Fuoco, Codice Rosso, e accanto a Alessandro Gassman. L'anno successivo è uno dei fratelli Giuliano, esponenti della malavita napoletana, che hanno rapporti con Maradona nel film di Marco Risi, Maradona, la mano di Dios. E questo cos'è? È un pensierino, in segno di amicizia. Gigi mi ha detto che ti hanno rigato la macchina. Tranquillo, non è niente. No, Diego, non è niente. Babbo, comunque qua fuori ce ne sta parcheggiata una nuova. Va bene, e che ci dovrei fare? Come che ci dovrei fare, Diego? La devi guidare, ti fa un giro per Napoli, vedi Napoli. L'importante è che ogni tanto ti ricordi della povera gente. Oh? Grazie, però non so se posso accettare. Ma Diego, che capito? Mica è un regalo, quella è prova. Tu la provi, ti piace? E te la compri. Non ti piace? E qual è il problema? Tu non mi arretrata a volte. Via, via questa cosa. Ah? Vabbè, vabbè, se è così va bene. A posto? Come no? Poi ce facciamo una fotografia. Sì. Tony, vieni a Kai. Fammi una foto con mio amico Maradona. Tu, Gigi, levatelo poco, okay? Nel 2008 Pietro ritorna al piccolo schermo con una intensa serie TV dal titolo La Nuova Squadra, dove interpreta il ruolo dell'ispettore Vito Sorrentino, un poliziotto del corpo dei Falchi che viene arrestato all'inizio della seconda serie dal suo amico di squadra, l'ispettore capo Sergio Vitale, che è interpretato dall'attore Rolando Ravello. Che fai, te ne vai senza salutare? Non mi piacciono gli addii, troppe lacrime. E che c'è lì dentro? Un milione di euro, più qualche spiccio. Tu proprio non hai vergogna, eh? Sono nato storto, Sergio. Tu ci hai provato ad raddrizzarmi. Non ce l'hai fatta. Adesso Pietro ha 34 anni, sta facendo il lavoro che voleva fare, l'attore, ha una bellissima compagna, una bambina e vive in campagna, come racconta a Daria Bignardi, ospite lui, alle invasioni barbariche nel maggio del 2009. Ti dico una cosa, io vivo da 4 mesi in campagna, nel senso che ho un profondo amore per questo animale fantastico che è il cavallo, che ci dà dei ritmi di vita che sono diversi, no? Dovresti intervistare un cavallo una volta, ci vogliono 5 ore per fargli poggiare l'orecchia. E quindi tu, no? No, questa cosa in 20 minuti dobbiamo raccontarci tutto. Ok, e quindi il recupero del tempo proprio che è fantastico. Io, il mio sogno è la fattoria autosufficiente, 3 ettari di terra in cui mi faccio la luce, l'acqua, il formaggio, non dipendo da nessuno e dichiaro guerra allo Stato italiano dal mio futuro. Casia cosa dice di tutto questo? Che la tieni nella fattoria? No, lei è una donna assolutamente mondana. Una donna elegante. Tra l'altro lei, magari pure tu, ma è molto brava. Adesso sta facendo una cosa in TV, sì, dicono tutti bene. Che è bravissima, che ha un prodotta talento naturale. Siamo sempre prodotta dalla stessa società. Oh Madonna, è un complotto. È un complotto. Siamo organizzati. Ma del fatto che lei sia così brava, così, tu sei geloso, sei contento? No, nel senso che mi accorgo attraverso Cascia che invece un mercato cinematografico esiste, nel senso che quando mi si dice per esempio ma guarda che i film per te non ci sono, invece poi arrivano miliardi di copioni alla mia compagna, tu stai lì e dai un'occhiatina al suo copione, ah, però questo ruolo potrei farlo anch'io, no? Parliamo col produttore e invece no, non funziona così. E quindi a casa con Sofì ci rimani tu? Sì, o lei, dipende. Adesso la porto spesso in campagna, vorrei. Senti, che... chi l'avrebbe mai detto che tu ti saresti realizzato, soprattutto almeno a questo punto, nel rapporto familiare? Ti ricordi quando facevi lo spaccone, una donna a sera, i son gom to si femmen, a rape cosce, tutte quelle cose là? Dai, ti ricordi o no? Cosa? Ti ricordi? Hai avuto un periodo... Ma era un gioco, Daria. Sì, ma... appunto, però... Ma a parte che penso ancora che io sono uomo e tu sei donna. Ma io non rinnego nulla di quel periodo fantastico. Ma nonostante una promettente carriera da attore, Pietro Taricone non rinnega il suo passato di protagonista del Grande Fratello. Ogni forma televisiva è quella della Real TV. Cioè, il Grande Fratello è stata l'evoluzione di un tipo di televisione. Il punto di partenza è nato. Oggi le persone parlano facendo riferimento al Grande Fratello. Ma guardate le tesi nelle varie facoltà in comunicazione sul Grande Fratello. E salvo pure il Grande Fratello come operazione culturale, veramente, guarda. È una chicca il Grande Fratello, te lo faccio dire. È l'inizio di qua, io parliamo. È uno scossone, parliamo. E da quant'è che non c'era un dibattito pure che ha scomodato le grosse teste su fenomeni come questo? Anche se una grossa testa si smuove per dire Taricone è un coglione, però la grossa testa si è smossa, capito? Che era un germe di qualcosa, bello o brutto che sia, no? però era uno spunto dialettico e che quello va apprezzato. È pazzesco che alle soglie del 2000 il fatto per esempio di avere una determinata forma fisica presuppone il fatto che tu non possa dire delle cose sensate. Questo è un retaggio culturale allucinante, cioè, ma dove è uscito sto fatto? Ma Pietro è alla ricerca anche di qualcos'altro, così si appassiona agli sport estremi e in particolare il paracadutismo, che è un amore che gli ha trasmesso proprio la sua compagna Cassia. È uno sport che spesso praticano assieme. Lui è un paracadutista esperto, ma per chissà quale motivo fatale, durante un lancio nei pressi dell'avio superficie Alvaro Leonardi di Terni, precipita al suolo. È il 28 giugno 2010. L'impatto è fortissimo, i medici dicono come se fosse caduto da un palazzo di 7 piani. Lo operano per 10 ore nel vano tentativo di salvarlo, ma purtroppo Pietro non ce la fa. Apriamo questo giornale con la morte pochi minuti fa di Pietro Taricone, rimasto ferito ieri in seguito ad un mal riuscito lancio con il paracadute, il suo vecchio hobby, nei pressi di un avio superficie nel Ternano. L'incidente durante un corso sulla sicurezza in volo riservato peraltro ai paracadutisti già esperti. L'attore era diventato famoso con il reality show Il Grande Fratello, le sue condizioni erano apparse subito gravissime, era stato operato d'urgenza ed ero rimasto per molte ore in sala operatoria. Pochi minuti fa appunto la notizia che si apprende da fonti sanitarie dell'ospedale di Terni della morte dell'attore. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, secondo il presidente dell'avio superficie in questione potrebbe essersi trattato di un ritardo nella manovra di frenata. Taricone lascia la compagna Cassia Smutniak, a sua volta attrice, ed una figlia. Pietro lascia la sua compagna e lascia la loro bambina di appena 6 anni, ma lascia anche tutti i suoi fan, tutti coloro che lo hanno seguito nei suoi 99 giorni all'interno della casa del Grande Fratello, lascia coloro che l'hanno visto evolversi nella sua carriera di attore, lascia molti amici. L'ultimo applauso che riceve è quello lunghissimo della folla che attende alla bara davanti alla cappella dell'ospedale di Terni. Tanti lo ricordano, tanti parlano di lui, i messaggi sulla rete, le sue foto caricate su YouTube da persone che non lo hanno conosciuto, il ricordo di quelli che gli erano amici. Un suo compagno del liceo di Caserta, molto famoso, lo scrittore Roberto Saviano, il 30 giugno a Viterbo, durante una serata, lo ricorda così. Prima di iniziare, ovviamente mi va, perché è necessario ricordare un mio conterraneo, un mio compagno di scuola, che ovviamente è Pietro Taricone, che indipendentemente dall'amore che si poteva avere per la sua arte, per quello che faceva, c'è un tempo per vivere e un tempo per morire, insegna la Torah. Non era ancora per Pietro il tempo di morire, però purtroppo le cose sono andate così. Ma in ogni caso lui ha rappresentato il bene e il male, anche nel suo essere così guascone, un po' cazzaro, passare per il termine. Ecco, nel suo essere ha rappresentato per molti uomini meridionali, molti ragazzi meridionali, la possibilità di farcela, pensare che comunque una parte del mondo mediatico poteva accendere la luce anche su chi veniva da certe zone. Quindi, al di là di tutto, lui ha rappresentato per chi della mia generazione vedeva per la prima volta un casertano lì in televisione, ha rappresentato una possibilità. La compagna Cassia fa arrivare un messaggio di ringraziamento. Voglio ringraziare tutte le persone dalle quali stanno arrivando tanti messaggi di dolore per la scomparsa di Pietro. So che lui ci sta guardando e che ne sarebbe felice. Chiunque lo abbia conosciuto sa che era una persona speciale. Io sono stata la più fortunata perché l'ho avuto per 8 anni tutto per me, afferma. Questa è la storia di un grande amore. Però poi non vuole più parlare con i giornalisti di Pietro. Di Pietro Taricone e della sua vita sono state dette tante cose, ma il commento migliore lo fa lui stesso quando, sempre alle invasioni barbariche, dice: È talmente una visione microscopica di quello che succede, che non possiamo prenderci seriamente, no? Se tu pensi che siamo 6 miliardi, di cui 5 muoiono tutti i giorni di fame, non sanno manco chi siamo io e te, 500 milioni stanno così così, noi siamo i 500 milioni di europei, in questo poi focalizza sempre di più come arrivi in Italia, ascendi su Milano e siamo proprio una manciata schifosetta buttata lì che parla. Pietro Taricone, un uomo che ha provato a volare in alto e c'è anche riuscito, anche se, ahimè, per un breve periodo, è riuscito a dare corpo ai suoi sogni. Ecco, se volete mandarci delle altre richieste per altre storie, come ha fatto Eleonora questa volta, fatelo, scriveteci, abbiamo una pagina Facebook, Twitter, se no scrivete a me, se no scrivete al Falco e il Gabbiano @radio24.it, insomma, se volete ci trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.